Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È il secondo volume di Eclettica di questa nuova settimana sulle frequenze di Rock FM in compagnia di Giulio Caperdoni. Infatti Eclettica è presente tutti i giorni della settimana, da lunedì al venerdì, fra le 19 e le 20, ed ogni giorno è un volume. Alla fine della settimana li potete raccogliere, mettere sul vostro scaffale e andare a riprendere quando meglio preferite. Tutto questo ovviamente grazie al podcasting, di cui trovate i dettagli su myspace.com/eclettica. A Sua Eccellenza Illustrissima Vittorio Parasciano, prefetto di Montelusa. Vigata, lì 12 giugno 1891. Eccellenza, il sottoscritto Genuardi Filippo fu Giacomo Paolo e di Posacane del Mira, nato in Vigata, provincia di Montelusa, all'I3 del mese di settembre del 1860 e quivi residente in via dell'Unità d'Italia numero 75, di professione commerciante in legnami, desidera venire a conoscenza degli atti occorrenti per ottenere la concessione di una linea telefonica per uso privato. Gratissimo per la benigna attenzione che Vostra Eccellenza vorrà dedicare alla richiesta, si professa devotissimo in fede. Genuardi Filippo. Questo era l'incipit della concessione del telefono di Andrea Camilleri. Pretend. they may never come, I'll call upon you to do a service for me. But until that day, accept this justice as a gift on my daughter's wedding day. Atletica quest'oggi ho già servito il nuovo delle Coco Rosie, comunque non nuovo per quanto riguarda le playlist di Atletica, invece assolutamente nuovo il nome con cui ho aperto 120 Days, formazione norvegese che in questo 2007 sta facendo parlare di sé anche in Europa, però hanno avuto modo di sfondare prima negli Stati Uniti. A proposito di assolute novità per le playlist di Atletica, ci si sposta dalla Norvegia alla Svezia. Un quartetto di nome Audrey, Visible Forms è il titolo dell'album. Thank you. lume d'alba non filtrava nel cortiglio della Splendor, la società che aveva in appalto la nettezza urbana di Vigata. Una nuvolaglia bassa e densa cumigliava completamente il cielo come se fosse stato tirato un telone grigio da cornicione a cornicione. Foglia non si cataminava. Il vento di scirocco tardava ad arresvegliarsi dal suo sonno piombigno. Già si faticava a scangiare parole. Il caposquadra, prima di assegnare i posti, comunicò che per quel giorno e altri a venire, Peppe Schemmari e Caluzzo Brucculeri sarebbero stati assenti giustificati. Più che giustificata, infatti, l'assenza. I due erano stati arrestati la sera avanti mentre tentavano di rapinare il supermercato, armi alla mano. Questo era l'incipit della Forma dell'acqua di Andrea Camilleri. Parlo ancora di te, è una dolce resa, e non trovo pace così, ti ritrovo qui. E forse il meglio di me non l'hai visto mai. Scopro che i miei alibi sono inutili. Scappo solo per poi ritornare. Schivo i colpi dei ricordi per non farmi male. Ma nel provare a dimenticare, faccio finta che qualcosa ti è rimasto. Me. Ricordo le mie bugie e le tue verità che confondo con le mie, e parlo ancora di te, io che odio perdere. Solo per poi ritornare, schivo i colpi dei ricordi per non farmi male, ma nel provare a dimenticare, faccio finta che qualcosa ti è rimasto, e scappo solo per poi ritornare, schivo i colpi dei ricordi per non farmi male. Ma nel provare a dimenticare, faccio finta che qualcosa ti è rimasto di me. Johnny Fontaine will never get that movie. I don't care how many Dago, Guinea, Wok, Greaseball, Goombas come out of the woodwork. I'm German-Irish. Well, let me tell you something, my Kraut Mick friend. I'm going to make so much trouble for you, you won't know what to hit you. Walsh, I'm a lawyer. I have not threatened. I know almost every big lawyer in New York. Who the hell are you? Tu

Profumo di Eclettica compare tipicamente una volta alla settimana, poi ci possono essere ovviamente le eccezioni, che sapete a me piacciono veramente tanto, e serve per andare a ripescare nel passato di Eclettica, all'interno delle playlist di questa trasmissione, andare a cercare di riscoprire anni dopo quelli che sono stati i tormentoni di questa trasmissione negli anni passati. Quindi a partire dal 1994 ad oggi direi che di scelte ce ne possono essere veramente tante, come quella di quest'oggi, che forse, e soggettivamente come tutte le cose che dico va presa, forse era l'ultimo disco bello della Matador, e risaliamo all'anno 2000. Si trattava di House of Binary, album a nome di The Wisdom of Harry. Noi ci siamo ascoltati la traccia Coney Island, Of Your Mind. What you gonna do with your hands now? Are you gonna spank the monkey and go? Are you gonna try the yogurt with honey and garlic? Or are you gonna spell Satan backwards? It is alright. Whatever you do, grow up nice, yes. It is alright.